tesoro, ciao, ciao. Allora, mettetemi subito in mia macchina, prego, perché sono prostituta slovacca. Allora, a differenza di tutte le altre italiane, ovviamente, no, sono sbattuta per strada, sto in mia macchina, stai seduto bene. Tu ce l'hai gambe lunghe, tesoro, tutto bene? Tranquillo, posto, bene, posto. Bene. Tu tesoro, sta bene? Una favola. Bene, una favola. Belle favole, mi raccontava mia nonna. Che vuol dire una favola? Che va tutto bene. Che va una... tutto bene, va bene, perfetto. Allora, io vi racconto la mia storia. Dunque, la verità è che non sono solo slovacca, sono metà italiana, metà di Slovacchia. E questo comporta una cosa, che io sto bene con voi italiani, no? Però l'unico problema che ce l'ho è che quando dico che sono metà italiana, metà di Slovacchia, tutti voi italiani mi dite, ah sì, capito, sei rumena. Questo non sopporto. Per voi italiani, tutti noi di Europa di Est, siamo tutti uguali, tutte rumene badanti di vecchi. Allora, non c'è problema, però non è neanche colpa loro, poveracce, se sono rumene, no? Voglio subito dire una cosa, fra noi slovacche e quella di romena c'è tanto tanto, come si dice, odio. Questo bene mettere in chiaro. Poi la storia di paesi di Europa di Est è molto lunga, va bene, allora se volete qualche ripetizione poi vi do, adesso non è questo caso, perché dovete pagare anche doppio, va bene. Allora, volevo dire la mia storia. Dunque, mio papà viene di vicino Roma, un po' distante di Roma, invece mia mamma è di Slovacchia. Mia mamma abita a uno paese piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, si chiama Cerni, 35 km di Bratislava, un paese povero, un paese campagna, come posso spiegare un po' per voi, come Castelli Roma, conosci i castelli romani? Sì, sì. Allora, ecco, quelli paesi, sai, dove c'è tanta campagna, dove si mangia bene, Castelli di Roma conosco, no? I miei amici mi porta sempre, dove c'è quello vino buono Romanella e poi c'è quello pane buono che mi piace, mi porta sempre i miei amici. Allora, anche mia nonna quando ero piccola faceva la porchetta, però quella che si mangia, perché se no tutti pensano che di famiglia, invece lei era davvero buona, buona donna. E poi mia nonna quando ero piccola mi faceva sempre caffè nero, forte, come petrolio, bollente. Mi diceva sempre, Ania, questo devi bere, questo caffè ti fa bene. Io dicevo, ma no, non sono piccola, non lo posso bere quello caffè, mi fa male. Lei diceva, no Ania, devi bere. E allora io beva quello caffè. Allora, se quando sei piccolo giochi a salta corda, no, con quello gioco così che salti con la corda, a forza di bere quello caffè, quando saltavo sembravo canguro impazzito, no, saltavo forte forte forte. Allora, capito, faceva male, faceva venire tachicardia. Allora, sai che facevo? Arrivava tazzina caffè di nonna, facevo finta a bere e invece bere lo buttavo dove c'era una veranda e uno grande vaso di pianta di nonna. Quella pianta, a forza di dare quello caffè, diventata tutta viola rinsecchita, ma non l'ho mai detto a nonna, verità, no? Poi mi faceva ridere perché mi diceva sempre, allora Ania, adesso ti metti sotto veranda, su questa sdraietta, ti rilassi. Ah, io dicevo, nonna, magari se mi dai da bere meno di quello caffè, mi rilasso pure meglio da sola, grazie, no? E poi sai quando c'è foglie, non ridere tesoro, sai quando c'è foglie su albero, no? Che c'è vento e fanno così che fruscicano, no? Allora nonna faceva, senti questo Ania. Dicevo, che c'è di sentire? Questo vento non è niente speciale, no? Lei diceva, no Ania, questo non è vento. Questi sono bambini negretti che stanno su albero a muovere le foglie per fare vento a noi. E dicevo, ma poracci questi bambini negretti, no? Ma già stanno messi così male per conto loro, pensa se devono stare su albero a muovere le foglie per fare vento a noi. Questa storia è vera. Allora sentite, tanti tanti anni fa, pochi italiani lo sapevano, no, che il re Italia, quello periodo era re Italia, Abissinia, Albania, pochi lo sanno. Ecco, allora, italiani combattenti che stavano per tutta Europa di Est, sai che facevano? Cercavano bambini nostri piccoli, perché volevano sapere di loro dov'è che c'è, se quando c'è guerra c'è uno spazio dove c'è munizioni, cioccolate, sigarette, tutte quelle cose per guerra, no? E no, se i bambini piccoli dicevano, no, noi non lo facciamo la spia, non diciamo niente. Allora italiani dicevano, se non ci dite la verità, noi vi prendiamo, vi mettiamo su albero, vi facciamo fare il lavoro di negretti, vi facciamo muovere le foglie per fare vento, come abbiamo fatto con i bambini di Abissinia. Allora i nostri bambini piccoli ce l'avevano paura, no? Dicevano tutte le verità. Da quel momento, in mio paese, se c'è uno bambino fa capriccia, no? Invece di dire, se non sta zitto arriva babau, no? Come si dice in Italia. Da noi si dice, se non sta zitto ti metto su albero a muovere quelle foglie. Allora io dico sempre a mia nonna, nonna, questa cosa non la devi dire, no? Ma che ti hanno fatto poveri bambini negretti? Ma non è colpa loro, no, poverini, quelli già hanno tanti problemi. Lo sai lei che ti risponde? Lasciali stare, quello è il loro lavoro, ma non è cattiva, no, lei è solo una che è mezza pazzarella, gli hanno messo quello in testa, ripete, ripete, perché è vecchia. però le voglio bene. È unica di tutta mia famiglia che quando ero piccola mi abbracciava forte forte. È bello, no? Quando sei piccolo che ce l'hai qualcuno che ti abbraccia, è importante, perché ti fa sentire come che cresci bene, come che qualcuno ti ama. È bello questo, no? Lei era unica di tutta mia famiglia, perché il mio paese c'è mentalità stretta. Allora, mio paese, per esempio, se c'è uno il capofamiglia che esce la sera con moglie e figli, mai deve fare vedere che abbraccia la moglie e abbraccia figli. Perché se fa quello, tutti quanti pensano che lui non è, come si dice, non è uomo, che è debole. E questo è molto brutto. Invece mia nonna è unica che mi abbracciava forte, per questo li voglio bene, no? E poi mi diceva sempre: Ania, non ti preoccupare, siamo poveri, però fa niente, tu sorridi a vita. Perché diceva sempre che gente allegra, Dio aiuta. E questo è bello, no? Anche voi lo dite. Voi dite gente allegra, cielo aiuta. Questo così, no? Sì, tu sì. Tesoro, tu sei felice in tua vita? Come no? E ce l'avevi quando eri piccolo, qualcuno ti abbracciava? Sì. Oh, che bello. Vedi, ecco perché sei cresciuto bene così, alto, gambe lunghe. Per quello, certo, è vero che è così. Vedi che bella risata che ce l'hai. E tu tesoro, tu sei felice? Tanto. Ce l'avevi, qualcuno ti abbracciava? Oh sì. Oh, lo vedi che ce l'ha ragione mia nonna, guarda. Lo vedi che se tu sorridi, è una cosa chimica, no? Se tu sorridi mi viene di sorridere pure a me, no? Sorriso è come morbillo, si tacca gratis. È vero, no? È così, non costa niente, gratis, no? Però non è sempre facile, no? Che ti viene di sorridere nella vita, mica sempre facile che tu sorridi, tutto bello. Io basta che nessuno mi parla mio padre. Mio padre ce l'avevo brutto rapporto con lui. Allora, 2 anni fa sono tornata a Cerni, il mio paese. Allora, noi ce l'abbiamo belle famiglie allargate, no? Noi quando si pranza, cena, è bello tutti, nonne, piccoli, vecchi, zii, tutti insieme, 20-30 persone a mangiare, no? Quello bello. E praticamente mio padre, come tutti gli uomini italiani, vediamo, faccio la domanda, che cosa fa dopo mangiato? Riposino. Oh, bravo, ce l'ha avuto coraggio di dire, perché normalmente quando faccio questa domanda rispondono solo donne incazzate, no? Ecco. Allora, quello giorno mio padre non si mette sul divano, va a camera di letto, entra quella porta, non esce più. Allora mia madre dice, vediamo che succede. Apriamo quella porta, troviamo lui fermo, mobile, come mummia. Allora mamma dice, chiama quello dottore. Dottore entra, visita lui e dice, questo uomo morto crepa cuore. Allora io felice, capito, prima volta in vita mia che mio padre ce l'avevano a cuore, fino a quel momento non l'avevo capito, così è vita, no? Non è che puoi avere amore se prima non l'hai dato. Comunque, la cosa bella è questa, no? Che bisogna sempre cercare di sorridere. Allora io quando devo cercare di sorridere mi ricordo di mia nonna, no? Che stavamo strette su sofà di fronte alla televisione la sera, e mio paese in Europa di Est si fa tutti la stessa cosa, non quello che hai capito te tesoro, non quello che hai pensato tu, no, sai che si fa? Si guarda televisione, Rai 1 o Rai 2, televisione italiana. Noi veniamo qua perché pensiamo che tutta Italia come televisione italiana, no? Poi arrivi qui e trovi fregatura, certo, chiaro, io sono venuta proprio un momento sbagliato, no? Allora, guardavo televisione italiana e vedevo che donne italiane che stanno su televisione italiana, tutte ce l'hanno quelle, capelli tinti, tutte zoccole. Allora ho pensato, ah, questo è il mio paese allora. Allora ho detto a mio padre, io rimango qua in Italia e non torno più in Slovacchia. Però va bene, quando devo pensare qualcosa che mi fa stare bene, davvero, no? Allora penso a mia nonna, no? Infatti indovinate, allora mio padre non c'è più, mia mamma ce l'ha maleosa, cammina piano piano secca secca, indovinate chi è che salta come picchio? Nonna. Mia nonna, vedi che si sveglia però, anche se non ha mangiato, brava. Mia nonna, quella ce l'ha 81 anni, 81 anni, 7 caffè al giorno, salta come picchio, lucida lucida come gioiellino. Allora quando devo essere felice penso a lei, no? Che devo sorridere sempre, ce la metto tutta, come diceva Cicciolina. La storia vera è un'altra, mi chiamo Lucilla, sono da Ciglia, casa Albernocchi, c'è presente? Pandalmare, a Colombo. Faccio finta di essere anni perché si guadagna un sacco di soldi, ma proprio tanti. Avete più visto una battuta italiana per strada? Ci stanno più, sparite. È che non funzioniamo. Cioè se io sto per strada e dico, oh amore, sono Lucilla, scappano tutti. Se invece faccio, ciao tesoro, sono Ania, vengo di Slovacchia, allora ti vogliono portare via dalla strada, ti vogliono salvare, ti vogliono regalare un sacco di soldi. Funziona così. Quindi di giorno sono come voi e di sera faccio Ania. Di quello che vi ho raccontato è vero solo che mia nonna è stata una persona importante per me. Per il resto tutte balle. La storia vera della mia vita è un'altra. È la storia di mio fratello Massimo. Massimo ha iniziato a bucarsi a 14 anni. La Ciglia è brutta, eh? Ogni tanto aveva delle crisi di astinenza, di quelle belle forti. Un giorno mio padre ha fatto lo sbaglio di chiamare la guardia medica. Sono venuti a casa e ci hanno portato via Massimo. Ce l'hanno riportato dopo 4 mesi, ma non era più lui. Era secco secco, pelle e ossa. Non voleva bere, non voleva mangiare, non voleva parlare più con nessuno, neanche con noi. Noi, soprattutto mamma, piano piano, con tanta tanta pazienza, siamo stati brave. Da sole, perché assistenti sociali non ho visti, non ho visti mai. Abbiamo cercato di fargli tornare un po' di voglia di vivere. E dopo neanche un anno era pulito e non si faceva più. Aveva ripreso a fare una vita quasi normale e una mattina ha scritto un biglietto per mamma. Ha scritto che andava a portare a spasso Kira. Noi avevamo una volpina piccola piccola, bianca. Adesso non c'è più. Quella mattina Massimo ha preso Kira, l'ha portata giù nel garage, l'ha chiusa lì dentro e poi è andato verso, avete presente, Ponte Bianco, Ponte Marconi. L'unico testimone era un signore che abitava a Lungotevere degli Inventori, da lì si vede bene il ponte. Ha detto di aver visto una figura scura che per un po' di tempo era rimasto con i gomiti poggiati sul parapetto del ponte. Poi pian piano ha iniziato a indietreggiare, si è fermato, ci ha pensato un po', ha preso la rincorsa e si è buttato. Io, a parte il fatto di aver perso un fratello, no? La cosa che più mi ha fatto male è stata la rincorsa. Perché se prendi la rincorsa vuol dire che non c'è niente in questa vita che ti trattiene qua. Hanno cercato il corpo che non si trovava e poi dopo un po', quando l'hanno ritrovato, l'unica cosa che ha fatto quello stronzo, mio padre, per Massimo è stata prendere la foto più piccola, un quadratino, così, e l'ha messa sul secondo lampione a destra del ponte. Sopra però ci ha messo una plastilina leggera leggera che non ha retto. Adesso, se andate a vedere, tutto quello che è rimasto di Massimo è metocchio sinistro e un ricetto nero. Questo è tutto quello che è rimasto di mio fratello. Adesso, quando devo ripensare a qualcosa che mi fa stare davvero bene, ripenso davvero a mia nonna, che quando ero piccola mi abbracciava forte forte. E ripenso a quando eravamo piccoletti io e Massimo. Andavamo in un campetto di fronte a casa che era pieno di farfalle. A me piacciono tanto le farfalle. Massimo prendeva le farfalle con la punta delle dita e le metteva nei barattoli di vetro. Poi li chiudeva e me li regalava. Le farfalle morivano tutte. Però lo faceva perché voleva bene. Queste sono le uniche cose che mi portano avanti nella vita. Se volete chiamarla vita.